Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ecco, le presento Pierugo. Molto lieto, il mio Pierugo. Cagnolino adorato. Io senza di lui non posso vivere. Lo capisco. Lui senza di me non cena. Certo. Per questo l'ho dovuto portare. Certo. Dai, l'ho sapete ragionare. Piacere, Fantozzi. E poi è pechinese, coi giapponesi siamo lì. Andiamo, signorina. Ci pensa lei dare qualcosa da mangiare a questo piccolo cane? Buongiorno. Questo can, dog, mangia. Fame. Fame. Cucina. Mangia. Tu cucina. Ande. Comprende. What is this? Cosa è questo? Ah, finalmente un po' d'arrosto. Era ora. Cosa? È una scena epica. La signorina Silvani scopre che il pechinese Pierugo era stato cucinato nel ristorante giapponese molto chic in cui è andata con Fantozzi, che voleva farsi questa botta di vita, ma avevano fatto il passo più lungo della gamba, erano andati in un posto di cui non conoscevano le regole. Quindi quando Fantozzi disse porta il cane in cucina, fame, e loro se lo sono cucinato e te l'hanno portato. Perché vi porto questo tipo di testimonianza? Beh, perché oggi una parte di Roma è scioccata, come nel quartiere Monti hanno scoperto nelle cucine dei ristorantini, dei luoghi degli aperitivi, topi e scarafaggi. Cava, ci vediamo domani, andiamo a Piazza della Madonna a Monti, e lì si sta tutti, lì la sera si è andate tutta gente con il bicchiere di vino in mano, appoggiati, seduti sui monumenti, davanti a quei tavolinetti fatti con la risulta presa delle discariche, perché oggi a Roma va molto di moda il bistrò, che il bistrò sarebbe prendere sedie da una discarica, tavole fatte con gli imballaggi delle masserizie, e stare lì e parlare di cose altissime, cosa succede oggi in Parlamento, queste cose qua. Beh, in questo posto strafighetto in cui vanno tutti i vegani, però non sanno che mangeranno vegano, ma cara, c'è un sorcio gigantesco grande come un cane che galleggia nel minestrone che poi mangiano come una zuppa contadina o con i pici all'aglione, queste cose qua. Beh, questo ci fa pensare che in realtà esiste un sommerso riguardo quello che accade al di là dell'invalicabile Stargate che separa il luogo degli avventori, il luogo dove si cucina, dei nostri ristoranti. Cosa immaginate che accada dietro la porta che separa la sala da pranzo o il luogo in cui si mangia, si parla, si conversa, e l'altra parte del ristorante? Beh, esiste una pubblicistica immensa, altro che il cagnolino di Fantozzi. Si dice che accada di tutto, che si combini di tutto, ci sono delle operazioni di rimaneggiamento, di ricostruzione, di assemblaggio, di camuffaggio, delle vivande, delle cose non commestibili, viene plasmato tutto come se fosse pongo, viene proposto nuovamente. Beh, cosa sapete voi degli artifici e delle zozzerie che accadono nelle cucine dei ristoranti? Oggi raccoglieremo testimonianze delle provenienze più fantasiose delle derrate alimentari che poi vengono proposte, come sushi freschissimo di prima mano, coniglio in fricassea, bistecchina raffinatissima di mucca carezzata, non so, queste cose del genere che piacciono a tutti. Oggi la maggior parte delle persone esce di casa soltanto per mangiare, e quando va a mangiare poi parla di cibo. È una cosa terrificante, l'abbiamo già trattato in varie trasmissioni. Ma sì, ma dietro tutto questo apparato cosa si cela? Cosa sapete voi? Cosa avete visto? Cosa avete visto trasportare? Cosa avete visto fare? Avete mai lavorato nella cucina di un ristorante? Cosa accade di innominabile? Cosa accade di segreto? Avete mai sentito leggende metropolitane strane riguardo ai ristoranti? Si arrivano ai paradossi, che si cucini carne umana, questo è il paradosso più assurdo, ma che si cucini di tutto, cani, gatti, uccellini, animali da cortile, serpente, via dicendo. Beh, questo voi l'avete mai sentito dire? È qualcosa che vi risulta? È qualcosa che appartiene comunque all'universo allegorico dei racconti che avete sentito fare nella vostra vita? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Inizio da Liwaji, che è un po' più fortino, e terminerò il pasto con l'engawa. Vediamo cosa sarà l'engawa, magari no, scherzo. Molto forte. Fa schifo.

No, nutrie. Fatte cane ne ho viste pochissime, devo dire la verità. Ho visto anche più nutrie e vedo, noi abbiamo veramente la fortuna di poter assistere alla vita che siete in un parco acquatico, sì, naturale. Meraviglioso, abbiamo i germani che ci nidificano anche nei vasi del terrazzino a cui ti riferivi tu poc'anzi, possiamo assistere al passaggio, ai cormorani che si tuffano e poi si... Vabbè, è un paradiso terrestre. Ho capito, io ci tengo sempre a ricordarlo. Sì, lo so. Vivo tutti i giorni, è un posto meraviglioso. Ma sono felice. Sì, però le pantegane ci sono nel Tevere. Vorremmo condividere. Sì, non è che berresti un bicchiere d'acqua del Tevere, diciamo la verità. No, guarda, questo no. E oltre ad assistere a tutte queste cose meravigliose, ci capita soventemente di assistere anche, cioè di scoprire, insomma, abbiamo scoprito nel tempo che... Ne ho prove fotografiche, mi sono state fornite nel tempo. Allora, chi viene la mattina? Allora, guarda, diversi momenti della giornata, anche il pomeriggio, ma insomma le sponde sono frequentate da pescatori, pescatori che però non hanno alcunché di professionista. Diciamo, sono cinesi che vengono a pescare, visto che hai difficoltà a dirlo, lo dico io. No, vario genere, in realtà non saprei darti una precisa... Guarda, a me la testimonianza che mi è mandata sono vari cinesi, signori cinesi, che vengono lì con la canna da pesca, stranamente a pescare. Anche, ho visto anche delle persone del Bangla, abbiamo visto anche indiani, insomma, vario genere, un'umanità varia. Umanità varia. E vengono e pescano in modo... diciamo più o meno vario. Anche perché è molto pescoso, che non ci va nessuno, è pescoso il Tevere. Infatti il Tevere è molto pescoso, ci sono una quantità di... pescioni giganteschi ci sono. Ci sono dei pescioni giganteschi, ma insomma ci sono, vabbè, immagino che lo saprete, ma insomma ci sono carpe, anguille, i cefali che risalgono dal... il fiume per mangiare, siccome sono acque, come dire, non proprio ricche d'ossigeno, favoriscono... Però ricche di colibatteri, di tutte le fogne di Roma che si scaricano dentro. Comunque, sì, diciamo che il Tevere porta delle criticità. Sì, vabbè. Questi signori che vengono e che insomma si affacciano, in alcuni casi pescano addirittura dal muraglione al quale noi siamo ormeggiati, che abbiamo proprio di fronte alle finestre, incuranti anche delle nostre, come dire, proteste. Poi vengono, dalle foto che ho visto, confermami, dei grossi sacchi, quelli neri della spazzatura, che li riempono di questi pescioni e se ne vanno in questo bottino di pesce. Sì, anche secchi. Ti posso dire, l'ultima volta è uscito in persona la nostra presidentessa, che è uscita e gliel'ha sequestrati, gli ha cacciati a malo modo e si è portata... La presidentessa? Sì, esatto. Per interrompere questo sconcio, allora, la presidentessa ha fatto un'operazione meritoria, anche perché la domanda che ci facciamo noi maliziosi, tutti questi cinesi, questi signori del Bangladesh, non è che con questo pesce poi diventa sushi, diventa cibo etnico per questi signori, vanno, che bello, andiamo dal giapponese a mangiare, allora, il sushi, lui in realtà, e si beccano il pescione che, diciamo la verità, è ormai è mischiato con la pantegana, fanno l'amore, fanno specie fra di loro, capito? Perché mi sembra che è un tutt'uno. Io non li ho visti ancora questi mix, però voglio dire, non escludo stanno che possano lì, anche esistere. Devo passare il tempo. Fai bene. No, però voglio dire, noi ci siamo interrogate spesso dove vanno tutti questi pesci. Di questi pesci. In realtà apparentemente sembra che possano servire ad un fabbisogno. E con gli ombrelli che fanno? Perché ho avuto anche foto con gli ombrelli. Ah, beh, questa l'ho vista io personalmente, non da mare vivo, perché ero... Ho una documentazione di questo. Sì. È una cosa molto particolare che non conoscevo. Vabbè, c'è una storia di anguillari a Roma che risale agli anni 50, 60, eccetera. Però io qualche anno fa, passeggiando sul lungotevere all'altezza dell'isola Tiberina, ho visto proprio questi signori con questi ombrelli, cioè erano proprio ombrelli, e catturavano le anguille, le mettevano in delle vaschette lì piene d'acqua e poi se le portavano via, e poi nel tempo, diciamo, intervistando un po' i fiumaroli, insomma le persone, sai, Mare Vivo è anche frequentata da gente molto interessante, molto simpatica, mi raccontavano che se le portavano via anche in Campania e poi le consumavano, cioè le facevano spurgare, come si dice, e poi le utilizzavano per il pranzo per la cena di Natale, il pranzo di Natale. Abbiamo capito. Guarda, mi sta stanno arrivando sms. Nicoletti, ci saranno sicuramente cialtroni in giro, non fare sensazionalismo, danneggiare l'intero settore più degli operatori seri, ma nessuno mette in dubbio gli operatori seri, però diamo corpo una mattina, è venerdì, è una bella giornata, a quello che è leggendario che gira attorno agli orrori delle cucine. Ogni tanto, quando ci metto le mani in asse, qualche animaluccio viene fuori. Cerchiamo di risalire all'origine. Da dove vengono questi animaletti a cui vogliamo tutti tanto bene? Tanto questa mattina abbiamo già capito che comunque ci sono, stranamente, lungo il Tevere, che è un bellissimo fiume, un parco naturale, però non è proprio la cosa più salubre, visto che ci scarica di tutto dentro, signori, soprattutto cinesi, anche del Bangladesh, cioè che in teoria potrebbero avere anche loro delle attività di somministrazione cibo, che vanno con dei grossi sacchi, dei secchi, pescano pesce, se ne porta bizzeff e se lo portano via. Non credo se lo mangino loro tutto quel pesce. Mi viene da immaginare che diventi poi manicaretto, involtino primavera, sushi fresco di giornata. Mangiatelo, potrebbe anche farvi bene. Grazie Laura, ci sentiamo. Altra testimonianza ancora più foriera di brividi e di tormento. Francesca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Io vivo a Milano in un quartiere... Viva voce Francesca, mi sento un po' di alone. No, sono nella tromba delle scale. Allora, se puoi strombarti un attimo, perché c'è un alone che dà ancora più un tono sinistro a ciò che stai per dire, che in realtà è una realtà molto sinistra. Allora, non so se... Sì, qua va bene, va bene. Ecco, niente, no, volevo soltanto dire che io vivo in questo quartiere che è Chinatown a Milano. Sì. E qualche giorno fa, allora, premesso che nei ristoranti veri cinesi di Chinatown si mangiano le cose più disparate, che non sono neanche tradotte in menù, no? E quando chiede, ma che cos'è? Non te lo voglio dire. E non si può lamentare nemmeno se ogni tanto, esatto, poi esce fuori, che ne so, una coda, non hai chiesto che era e ti trovi la coda. No, esatto, però qualche giorno fa c'è una macelleria che è un po'... un punto di, diciamo, di non ritorno in zona, no? Che tutti guardiamo sempre. Morale, insomma, qualche giorno fa esce da un furgone trainato da questi cinesini piccolini, perché poi lì non si capisce, il posto è piccolissimo e c'è un sacco di gente che ci lavora, insomma, escono. E devono essere piccoli per forza, sennò non c'entra. Ma no, un po' mi sembrava una roba tipo fabbrica di cioccolato, gli Umpa Lumpa. Ah, gli Umpa Lumpa. Degli Umpa Lumpa. Così escono con questa carcassa di questo animale che io sono... praticamente certa fosse un cane, perché non è una pecora, perché non è un agnello, perché ha le zampe, cioè, insomma, c'aveva il collare ancora per caso, forse il microchip, non lo so, però io ero pietrificata. Tu hai visto gli Umpa Lumpa del quartiere cinese di Milano con un cane sicuramente? Io non so come dire, proprio ma aveva il pelo oppure era spelacchiato? No, spelacchiato, ma è un cane, non so, perché il fisico è del cane. Io ma andiamo per esclusione, allora, un maiale non era di sicuro. No, esatto, no. Una pecora non era di sicuro. No, neanche una capra. Che non so, un impala non era di sicuro, che ne so, ti dico... Neanche un canguro, ecco, neanche, per dire. Quindi solo un cane, che semmai di che razza poteva essere? Occhio e croce. Ma no, ma di quei meticci, sai quelli un po' medio grossi? Una bestia. Quindi un povero cane meticcio abbandonato, tipo Lilli e il Vagabondo, poteva essere casualmente finito nella macelleria degli Umpa Lumpa. Ma alla velocità è sparito nel retro. Boom, così, no? Tipo, apri porte, chiudi le porte. Io così, dico, non ci posso credere, tant'è che è proprio... Insomma, poi tra l'altro io ho un'amica cinese che... Hai fatto qualche domanda, se per caso... No, no, perché ci ho messo insieme alla disavventura della signorina Silvani, che sai, quando c'è una leggenda, qualcosa di fondamento c'è sempre. No, guarda, io ti dico una cosa, io ho un'amica cinese che vive in Italia ed è praticamente italianissima, che lei mangia il cane, mi ha detto che il cane è buonissimo. I cinesi lo mangiano, c'è una festa nazionale che mangiano i cani. Sì, ma lei vive in Italia, quindi il cane se lo mangia in Italia, io non per questo che voglio dire. Ah, quindi c'è, diciamo, una somministrazione clandestina di cani per amatori di cani. E guarda che la costina è buonissima, dico grazie, e io avevo il cane al guinzaglio, no? Dico scusami. Beh, per molti è un abominio mangiare mucche o mangiare conigli. Sì, esatto, sarà se una pensa, cosa culturale. Il povero fratello coniglietto, tu te lo mangi con la carota in bocca. Vabbè, non per so dire. Se in Italia si possa mangiare il cane. Comunque, no, il cane no, è proibito. No. Sono animali d'affezione, cani e gatti è proibitissimo, scherzi. Ecco, allora, insomma, qualcosa... Quindi la tua amica cinese, messa insieme, l'amica cinese che

Non c'è da escludere che uno vada a caccia di cinghiale la notte per servirlo il giorno dopo come pappardelle, però basta capire. No, può capitare magari nei ristoranti quelli più esterni, quelli più delocalizzati, magari i ristoranti classici, le vecchie trattorie nelle zone di, diciamo, montagna o cose del genere. Ma qual è la cosa più orribile che ha visto lei nella sua carriera, che veramente le ha fatto ribrezzo? Beh, guardi, nei ristoranti le cose che normalmente fanno più ribrezzo sono quelle, la condizione igienica di come vengono tenuti i frigoriferi, dove vengono conservate le derrate. Lo zozzo nel frigorifero. Sì, completamente in disaccordo da quella che è la normativa per l'igiene, per la salute e anche per i lavoratori stessi che ci lavorano. Cioè un obitorio, aprire il frigorifero è come aprire un obitorio con un morto andato sì, a male. Ci tengo però a fare solo questa differenza. Ci sono ristoratori con coscienza, certo, e con capacità, che sanno come gestire una cucina, sanno come gestire il personale e ci tengono loro per primi alla pulizia degli ambienti. Altri che invece lavorano a botte di 300 persone ogni 40 minuti, magari viene in mente le zone intorno a San Pietro, dove i ristoranti ospitano grossissimi numeri di pellegrini, in 20 minuti devono fare tipo... Poi il pellegrino passa una volta, poi non passa più. Esattamente, ha capito perfettamente. Il pellegrino è il più vessato, il secondo è il turista. Io mi sono ritrovato in più di un'occasione andare a Roma a mangiare al ristorante a Trastevere e dovevo specificare che non ero uno straniero, perché magari ero accompagnata da amiche che lo erano, perché il trattamento altrimenti è decisamente, decisamente inferiore. E questo mi sembra logico. Poi, naturalmente, se non esistessero le cucine da incubo, non avrebbe lavoro lo chef Cannavacciuolo, che poi va e riporta a posto i ristoranti. Quindi stiamo dando una materia di indagine e anche di rettifica, appunto, allo chef Cannavacciuolo, che può andare in giro per ristoranti, resto schifo, e vabbè, è esattamente quello che ci stanno testimoniando i nostri ascoltatori. Ripeto, non facciamo di ogni erba un fascio, diamo corpo al leggendario che passa per la mente del cliente mentre aspetta che gli portino la portata. A tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, testimonianze da cucine da incubo. Mi suggerisce il professor Rocchetti, per un po' di tempo non andare al ristorante, forse è meglio per te. Ci sono colleghi che vanno sotto scorta per parlare di argomenti molto scabrosi, molto pericolosi. Rischieremo lo sputo sulla bistecca, ahimè, per aver fatto il nostro dovere. Giuliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io ho lavorato per 6 mesi in un autogrill vicino sull'autostrada di Genova, praticamente. Vabbè, uno dei tanti, non entriamo nello specifico, sennò gettiamo la croce. Scusi, esatto. Nell'ilarità generale, uno degli impiegati sputava proprio malamente, diciamo, degli sputacchietti. Cioè proprio uno scaracchio, vero? Catarrava brutalmente sulla pizza e nell'ilarità generale la chiamavano pizza speciale. Il bello è che questa pizza speciale andava a ruba. Come la capricciosa, fa conto. Io non lo so. Poi solo che non era uovo sodo. Vabbè, questo è un caso isolato, ma risponde a verità al fatto che molte volte sono le vendette dei camerieri che nell'ordine sono sputare o l'intingolo, l'innominabile intingolo, che è una cosa che non si può nemmeno dire alla radio a quest'ora. Accade di tutto, accade. Andiamo avanti. Giuseppe, cosa ha visto lei? Buongiorno. Sì. Io lavoravo vicino a Cuneo, a Monferrato, come muratore. Siamo entrati per fare un preventivo con il mio datore di lavoro attraverso la cucina. Ed io ho visto una lavapiatti che usavano come prelavaggio per pentole, pentolini, padelle. Era un enorme pastore tedesco con una linguaccia rasposa a cui davano per terra questi oggetti, pentole come dicevo. C'è la prima sgrassata, la lava il cane leccando sì, il piatto. Sì, sì, con il testone dentro e con la linguaccia raspava tutto quel c'era. Quindi risparmiavano in detersivo e davano da mangiare al cane. Assolutamente, quindi residui di bagna cauda, sughi al coniglio, soffritti. Il cane aveva avuto un po' il fiato sapadaglio dopo, però aveva ottenuto che si dava da fare, insomma. Beh, perché discriminare, scusi? Perché non può guadagnarsi il pane un povero cane lavorando in una cucina come sguattero? Giustamente, giustamente. assolutamente. Leccava tutti i piatti, poi loro gli avevano dato sta ripassata invece che passare con la spugna, gli aveva dato il pastore tedesco, sì, e li lavavano poi... e tornavano come nuovi. Esatto, poi il bello era che nei lavandini dove lavavano poi le pentole, prima ci avevano strizzato gli stracci con cui usavano pulire per terra, certo. Erano passati gli scarafaggi. Sì, però c'era del detersivo, quindi la pentola si sgrassava, insomma. Guardi, se lei ha mai avuto l'avventura di fare il militare e fare la corvée cucina, le potrei raccontare delle cose che ho visto. Poi erano le caserme, e parliamo degli anni, fine anni 70, anni 80, accadeva altro, ben altro, però questo è un ristorante dove la gente va e paga. Martina. Sì, ciao. Ho finalmente una donna, perché gli uomini, le donne sono poco propense a confessare quello che accade e che hanno visto. Con coraggio, allora, coraggio, determinazione, poi si sentirà meglio, faccio la sua testimonianza. Ma certo. Allora, io parecchi anni fa, finché studiavo, lavoravo come cameriere in un catering, di quelli che organizzavano quei grandissimi matrimoni nelle ville venete. E tutta l'attrezzatura veniva portata e poi montata per il servizio e poi smontata, perché nelle cucine non c'erano, nelle cucine delle ville non c'erano. Beh, Palladio non aveva pensato anche alle cucine, esatto, molteni, è chiaro. Esatto. E la cosa che mi faceva impressione era quando venivano servite le patatine novelle, quelle carine con un po' di prezzemolo. Quelle carine, belle. Esatto. Venivano messe dentro queste delle grandi vasche dove effettivamente noi all'andata portavamo magari l'attrezzatura, quindi non era proprio pulitissima. Venivano condite rigorosamente con olio di sanza o oli di questo genere, dalle braccia nude del cuoco, tutto sudato, peloso, che immergeva le braccia all'interno di queste vasche e condiva le patate. Si asciugava il sudore delle ascelle con la patata novella. Esatto. Va fatta apposta. Da quella volta non ho mai più mangiato la patata. Assorbe il sudore, ristorante. È chiaro. Esatto. Ecco, questa è la mia testimonianza. Grazie. Allora, dalle ville palladiane viene fuori l'orrenda testimonianza del bruto cuoco che con le braccia nude infilava il braccio nella patata innocente e sporcava e lordava con il suo sudore e il frutto che doveva essere in realtà portato sulla piazza, sul piatto dei novelli sposi. Pietro, ho la voce rotta dall'emozione. Pietro. Salve. Cosa ha visto lei? Niente, per... Cosa, scusi? Cosa ha visto? Racconti, testimoni. Ho lavorato per 14 anni come extra, nel stagionale. Ho visto veramente di cotte e di crude in centro Italia. Faccio degli esempi pratici. Allora, esempi pratici. Forse uno dei peggiori, il cane che mangiava direttamente la pentola, cioè il sugo nella pentola, sugo che poi non veniva assolutamente rifatto. Diciamo che la maestranza canina mi sembra un classico nei ristoranti. Però io penso che i cani debbano anche, in fondo, potere avere delle occasioni di lavoro. Quindi se stati solo avanti non ci sarebbero stati. No, invece nel secchione del ragù che poi condiva i piatti di portata, il cane era un errore, però è capitato. E il cane ci infilava il muso e mangiava. Vabbè. Ma ho visto decongelare e ricongelare le cose, ho visto. Ecco, lo scongelamento e ricongelamento continuo, sì. Sì, quello sì, più quello volte. È un classico, visto, sì. Ho visto le cose cadere regolarmente su pavimenti lordissimi, ovviamente, mentre si cucina, non perché non si possono tenere puliti mentre si cucina, e poi raccolte e comunque impiattate. Io ho visto una matriciana in un noto ristorante, quartiere Prati, cascare sul marciapiede, immagino un marciapiede di un quartiere di Roma dove passano cani, sigarette, di tutto. Il cameriere, visto che nessuno se n'era accorto se non io, l'ha raccolta velocemente, l'ha ricomposta nel piatto e l'ha riportata alla persona. Io mi sono alzato, me ne sono andato, ma l'ho visto, anch'io sono stato testimone. Pietro, buongiorno, ultimo. Pietro, cioè non c'è nessun altro? Era l'ultimo? Allora chiuderò con la mia testimonianza. Pietro, che ha fatto il cameriere, ha visto questa terribile vicenda del cane che infilava il muso dentro il ragù, mancando 30 secondi, non chiamate nessun altro, che mi sembra ormai inutile. Volevo ancora una volta rassicurare gli onesti ristoratori che non è stata una trasmissione fatta per demonizzarli, ma visto che noi clienti di ristorante molte volte abbiamo un immaginario molto fecondo, questo è quello che immaginiamo che possa accadere nei vostri ristoranti. Convinceteci che è soltanto la nostra immaginazione. A lunedì.